Mix 24 estate di Giovanni Minoli. Bentornati su Mix 24 estate, un viaggio tra musica e storia negli anni 70. Ci tengono compagnia come ogni giorno le voci di Franco Schifani e di Alessandra Fiori. Allora, oggi siamo nel 78. Quali sono le novità in campo musicale? Giovanni, dopo tanto tuonar, piove! Staying Alive, Bee Gees, ben trovati, ciao a tutti, sono Franco Schipani e qui con me c'è Alessandra Fiori, ciao Alessandra! Ciao Franco, buongiorno a tutti, bentornati su Mix 24 Musica e Storia. È il 1978, Franco, e io aspettavo con ansia l'arrivo dei Bee Gees. E sono arrivati, Alessandra, sono arrivati! Beh, allora, in America questo pezzo ha avuto un grossissimo successo, tu lo sai, anche perché c'era il film... Night Fever and More Than a Woman, questi erano i Bee Gees, carissima Alessandra. Oh, caro Franco, i Bee Gees, che bello. No, ma ti devo raccontare una cosa divertente. Quando è uscito questo film, la casa discografica italiana organizzò una visione per noi giornalisti. Eravamo 300 o 400 persone in un cinema qui a Roma. Pensa che noi eravamo appena tornati a Londra, dove avevamo visto un concerto di musica rock all'aperto con Peter Gabriel. Cioè, e vedere questo film dove c'era questo cafoncello con la camicia con un po' i pizzetti qui alla Little Tony che mangiava la pizza per strada eccetera, ci faceva ridere, abbiamo cominciato a sghignazzare fin quando Elio Donato, il barone Elio Donato, che era il decano di tutti noi giornalisti musicali, si alzò e disse: ragazzi, non avete capito nulla, la musica come noi la conosciamo oggi è cambiata qui a Roma. E proprio Roma, in questo 1978, è il teatro di uno degli episodi più tragici del terrorismo. Il 16 marzo le Brigate Rosse rapiscono Aldo Moro. Sono le 9 del mattino e in via Fani un comando delle BR rapisce il presidente della Democrazia Cristiana e uccide i 5 agenti della sua scorta. Per Moro i brigatisti annunciano il processo in un carcere del popolo, ma il governo non tratta con i terroristi e rafforza i poteri della polizia. È pronto Franco Dritto? E chi parla? È il dottor Nicolai. Chi Nicolai? È lei professor Franco Dritto? Sì, ma io voglio sapere chi parla. Brigata Rossa. Va bene? Ha capito? Sì. Adempiamo alle ultime volontà del presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro. Mi sento sempre fuori? Mi sente? No, se può ripetere il cortesino. Non posso ripetere, guardi. Sì. Allora, lei deve comunicare alla famiglia, sì, che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro, sì, in via Caetani. Via? Caetani. Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono N5. Devo telefonare io? No, dovrebbe andare personalmente. E non può. Non può? Dovrebbe per forza. È la drammatica telefonata del brigatista Valerio Morucci. L'altra voce che abbiamo sentita è quello del professor Franco Tritto, l'allievo di Moro. Dopo 55 giorni di prigionia, infatti, il cadavere di Moro viene ritrovato il 9 maggio, in pieno centro, a Roma. Il giorno successivo, Francesco Cossiga si dimette da ministro degli interni. E dopo molti anni, Steve Pieczenik, consigliere di Kissinger e del Dipartimento di Stato americano ai tempi del sequestro, ha raccontato la sua verità sull'uccisione di Moro. Quindi sostanzialmente lei dal primo giorno ha pensato e detto a Cossiga: Moro deve morire. Beh, per quanto mi riguarda la cosa era evidente. Cossiga invece se ne rese conto solo nel corso delle ultime settimane. Io sapevo benissimo che il problema era dato dalle Brigate Rosse e dallo stato di destabilizzazione in cui versava l'Italia. Io sapevo dunque che Aldo Moro sarebbe stato il fulcro da sacrificare intorno al quale ruotava la salvezza dell'Italia. Sono parole sconvolgenti, quelle di Steve Pieczenik. E da questa intervista nasce la nuova commissione d'inchiesta sul caso Moro. Ma intanto l'immagine del ritrovamento del suo cadavere in via Caetani è rimasta impressa in maniera indelebile nell'immaginario del paese. Ma tu, Franco, dov'eri? Cosa ti ricordi di quei giorni? Ma ci sono delle date che non potrei mai dimenticare nella vita. Io mi ricordo esattamente cosa stavo facendo. Sono uscito da casa a un certo ora del mattino perché avevamo fatto tardi la sera. Salgo su questo taxi per andare all'aeroporto perché c'era un concerto degli Osanna. E vedo tanta polizia in giro. E dico al tassista, chiedo, ma scusi, ma cosa è successo? Lui si gira e mi guarda e fa, ma hanno rapito Moro? E io quel momento dico, ma Moro chi? Neanche riuscivo a concepire il fatto che avessero rapito proprio Moro della Democrazia Cristiana. Cioè, ti rendi conto? Comunque, guarda, come all'epoca, the show must go on, la musica deve continuare e noi continuiamo con la musica. Grease, Frankie Valli, poi Olivia Newton-John e John Travolta con You Are the One That I Want and Summer Nights, Alessandra. Danny Zuko e Sandy, ovvero John Travolta e Olivia Newton-John, e poi lei, la leader delle Pink Ladies. Lo sapevo che era la tua favorita per qualche Betty motivo. Betty Rizzo, meravigliosa. Beh, Grease sì che è stato un tormentone. È stato un tormentone, ma anche questi sono stati un tormentone. You Make Me Feel, Sylvester, e poi la grandissima Donna Summer con I Love You. Franco, vedi appunto, I Love You, disco, ritmo, d'accordo. Però le parole poi alla fine sono sempre le stesse. Amore, amore, cuore. Però cara Alessandra, una novità c'è, perché sul trono della disco music si insedia una non cantante e misteriosa e diversa. Con il mistero di questo 1978 torniamo subito dopo la viabilità. Mix 24, musica e storia. Give you wings, I Elegante, misteriosa, diversa. Amanda Lear con Queen of Chinatown and Follow Me, Alessandra. Era lei il mistero di questo 1978. Bentornati su Mix 24, musica e storia. Io sono Alessandra Fiori e con Franco Schipani stiamo raccontando il paese attraverso appunto la sua storia e la sua musica. Ma Franco, allora, abbiamo detto Amanda Lear, una vita avvolta dal mistero. Perché lei si dice, sembrerebbe, che sia nata a Hong Kong da un marinaio britannico e da una madre di origini russo-mongole. Ma la Lear ha giocato con questo mistero, diciamoci la verità. Ma ci ha giocato veramente tantissimo. Poi non capisco questa cosa del mistero, perché già all'epoca c'erano riviste patinate, ne parlavano tutti. Non è che era una proprio misteriosa, che proprio diciamo sconosciuta, ecco. Lei è stata anche la musa di Dalì. È stata la musa di Dalì, poi è passata a un altro pittore che si chiama Andy Warhol. E poi da Andy Warhol, diciamocelo, a rock and roll il passo è veramente breve, quindi poi c'è stato David Bowie, Brian Ferry e poi si è diffusa la voce su un suo presunto cambio di sesso che lei ha sempre smentito. Sì, sempre smentito. E comunque se era una trovata pubblicitaria, diciamo che le è riuscita piuttosto. Ha funzionato alla grandissima, cara Alessandra. Comunque il 1978 è un anno molto molto movimentato anche per la Chiesa. Il 6 agosto muore Papa Paolo VI, Papa Montini. Il conclave, il primo che viene effettuato in mondovisione, elegge Papa Luciani, Giovanni Paolo I. Ma il suo pontificato è uno dei più brevi della storia. Dura solo 33 giorni. Eletto il 26 agosto, muore improvvisamente il 28 settembre. E il 16 ottobre il conclave elegge il nuovo Papa. Annunzio vobis gaudium magnum, habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesie, Cardinalem Boitiva, sibi nomen imposuit Ioannis Pauli. Carissimi fratelli e sorelle, anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio mi corrigerete. Erano le parole di Giovanni Paolo II in occasione della sua prima messa da pontefice. E mi era proprio simpatico quando l'ho visto sul balcone che parlava così, parlava proprio come uno di noi, guarda, molto molto simpatico, poi tutto vestito di bianco. Comunque, parliamo di gente vestita di bianco perché dobbiamo tornare alla musica, perché il mio file è sempre file quello musicale. È sempre quello. Mi ricordo questo cantante con un vestito bianco, una tunica tunisina, con dei lunghi capelli, una lunga barba, che aveva realizzato dei dischi tipo Aria con un vecchio incensiere all'alba di un villaggio deserto. Sto parlando di Alan Sorrenti, il quale poi a un certo punto ha riscoperto le sue radici napoletane, ha fatto Dicidencello Vuie in napoletano, è andato nel primo posto in classifica in Italia, e l'anno dopo che cosa ha fatto? A me la classifica piace e quindi ci rimango. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno. Noi stanotte figli delle stelle, ci incontriamo per poi perderci nel tempo. Figli delle stelle, Alan Sorrenti e poi un Tony Renis in falsetto che fa quando. Un po' Bee Gees. Fantastico. Beh, la moda era quella, Alessandra. Senti, ma perché invece era così cambiato Alan Sorrenti? È cambiato perché lui aveva un produttore che si chiamava Corrado Bacchelli, che lavorava molto per la EMI, la sua casa discografica, ed era un produttore internazionale, uno che viaggiava moltissimo, tanto è vero che molti dei suoi collaboratori già vivevano a Los Angeles in quel periodo e conosceva benissimo quelli, per esempio i Bee Gees. C'era la Robert Stimwood Organization, la famosa RSO, e lui lì era di casa, quindi ha detto: io ho questo cantante e voglio fare questo tipo di operazione. Però Alan, come ho detto, è uno che aveva provato i vertici della classifica, quindi ormai era felice di essere riconosciuto, perché molti dei suoi, diciamo, colleghi avevano fatto fortuna e lui era rimasto un po' nell'underground. Ha detto: bene, mi taglio la barba, mi taglio i capelli, sono un bel ragazzo, mi vesto bene e faccio Figli delle Stelle. Ed è andato al numero uno, cara Alessandra. Ah, ho capito. Senti, ma sempre questo 78, no? Che è un anno molto prolifico per molti. Intanto però io non noto più la presenza dei bambini. I bambini negli ultimi anni, le sigle dei cartoni animati, tutte le sigle appunto in classifica. Ma che fine hanno fatto adesso i bambini? No, ci sono i bambini, ci sono alla grande. Tanto è vero che diventano ancora una volta i protagonisti delle nostre hit del 1978. Cerca d'essere serio, vieni giù dal lampadario, ma che modo di giocare questo qua? Lascia stare mamma, se non vuole far la scimmia, per giocare un altro modo ci sarà. Sto ridendo pure io, Alessandra, perché ci ricorda qualcosa, eh? UFO Robot di Actarus, Tarzan lo fa, Nino Manfredi e Sbirulino di Sandra Mondaini. Sbirulino me lo ricordo. In realtà era mia mamma che era appassionata di Sbirulino. Io lo seguivo perché piaceva a lei, per compiacerla, diciamo. Visto? Le piaceva moltissimo. I nostri cantanti, invece, cara Alessandra, quelli che non hanno un secondo lavoro come gli attori, nel 1978 hanno pubblicato dei capolavori. Può darsi che io non sappia cosa dico, scegliendo te una donna per amico, ma il mio mestiere è vivere la vita, che sia di tutti i giorni o sconosciuta. Ti amo forte, debole compagna, che qualche volta impara e a volte insegna. Io penso sempre a te. Mi sembrerà se non torni tu. Pensiero stupendo nasce un poco strisciando. Si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. Una donna per amico, Lucio Battisti, Città vuota di Mina, è la donna dei miei sogni, Pensiero stupendo di Patti Pravo, Mina, ultima apparizione, dopodiché registra un doppio album dal vivo alla Bussola e dice: basta, me ne vado, mi ritiro nei miei appartamenti. E diventa un mito. Un mito. Un mito assoluto. E intanto il 9 luglio del 1978 viene eletto anche il nostro settimo presidente della Repubblica. Ma noi, Franco, ve lo raccontiamo subito dopo il GR. Che cos'è l'Olimpo? Perché è importante fare sport? Come ci si prepara a una Olimpiade? Le domande dei più piccoli, le risposte dei più grandi. Sono Federico Taddia e vi aspetto a Terra in vista le Olimpiadi spiegate a mio figlio, insieme al filosofo della scienza Telmo Pievani. Il mito, la vittoria, il limite, la corsa, ogni puntata una parola per raccontare lo spirito olimpico. E non solo, tante storie e curiosità e poi le nostre rubriche come Non battere la fiaccola, le animaliedi e la scienza nello sport. Terra in vista, ogni domenica alle 9. Perché l'importante non è vincere, è ascoltare. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Mix 24, musica e storia. Bentornati su Mix 24, musica e storia. Sono Alessandra Fiori e sono con Franco Schipari. Franco. Ciao. Ciao Franco, stiamo raccontando il paese attraverso la storia e la musica nel 1978 e, come avevamo anticipato prima del GR, parlavamo del nostro settimo presidente della Repubblica, che è un presidente amatissimo e si presenta come il capo della famiglia degli italiani. È Pertini e così dice ai giovani negli anni del terrorismo. Non armate la vostra mano, giovani, non ricorrete alla violenza. Armate invece il vostro animo. Di una fede vigorosa, sceglietela voi liberamente, perché questa vostra scelta presupponga il principio di libertà. Perché se non presuppone il principio di libertà, voi dovete respingerla, altrimenti voi vi mettereste su una strada senza ritorno, una strada in cui al termine vi sarebbe la vostra morale e personale schiavitù. Sareste dei servitori in ginocchio, mentre io vi esorto ad essere sempre degli uomini in piedi, padroni dei vostri sentimenti e dei vostri pensieri. E un giovane in piedi era Peppino Impastato, ucciso a Cinisi il 9 maggio. Giornalista, attivista, viene giustiziato per ordine del boss mafioso Gaetano Badalamenti. La sua storia è raccontata da Marco Tullio Giordana in un film di grandissimo successo e molto bello, I 100 passi. Sei andato a scuola, sai contare? Come contare? Come contare? 1, 2, 3, 4, sai contare? Sì, so contare. E sai camminare? So camminare. E contare e camminare insieme lo sai fare? Sì, penso di sì. Allora forza, conta e cammina. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conta e cammina. 80, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai chi ci abita qua? Ah, un sotano ci abita qua. 100 passi ci sono da casa nostra, 100 passi. Era Luigi Locascio, protagonista dei 100 passi. E Peppino Impastato in quel periodo aveva anche fondato una radio libera, una delle tante che c'è in Italia, ma quello che sarà molto molto radio particolare. Out. E sono sicuro che trasmetteva i brani di questi due amici cantautori. Nata sotto il segno. Anni sono pochi per promettersi il futuro, ma tutto quel che voglio, dicevo, è solamente amore. Generale, dietro la collina ci sta la notte, crucca e assassina. E in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Sotto il segno dei pesci, Antonello Venditti e generale Francesco De Gregori. Sono lontanissimi i tempi in cui questi due amici cantautori erano costretti a dividersi un LP in due. Ma nel 1978 la RCA italiana punta molto anche su questi due nuovi giovani talenti. Yeah. Il triangolo Renato Zero e poi era Gianna di Rino Gaetano. Pensa che quando lui ha portato questa canzone a Sanremo non la voleva cantare perché mi ricorda troppo la Filanda di Milva, dice voglio cantare un'altra cosa, poi lo convinsero, ebbero ragione perché ebbero un grandissimo successo, enorme. Ma come sempre Franco ti porto un momento all'estero, perché l'11 marzo del 78 un commando palestinese compie un sanguinoso attentato sull'autostrada Haifa Tel Aviv, uccidendo 32 civili israeliani. Per rappresaglia le truppe israeliane occupano parte del Libano meridionale, bombardano i campi profughi palestinesi e da quel giorno il confine tra Libano e Israele non sarà più lo stesso. Ancora oggi i due stati non hanno relazioni diplomatiche. Ma dall'estero, Franco, arriva anche una buona notizia. Tra il 5 e il 18 settembre, il presidente americano Carter, quello egiziano Sadat e il premier israeliano Begin si incontrano a Camp David. Dear President Carter, in this historic moment, I would like to express to you... A Camp David si firmano due accordi. Uno per la pace in Medio Oriente e uno per la pace tra Egitto e Israele. Nello stesso anno, Sadat e Begin vincono il Nobel per la pace. Beh, cara Alessandra, è un bel successo. E comunque nel 1978 due grandissimi artisti milanesi riescono a confermare il loro successo, non soltanto di pubblico, ma anche quello della critica. È la pulce d'acqua che l'ombra ti rubò e tu ora sei malato. E la mosca d'autunno che hai schiacciato non ti perdonerà. Sull'acqua del ruscello forse tu troppo ti sei chinato. Tu chiami la tua ombra ma lei non ritornerà. E lui che torna a casa sbronzo quasi tutte le sere. Quel silenzio tra noi due che sembra non finire. Quando lo svesto lo rivesto e poi lo metto a letto. E quelle lettere che scrive poi non sa spedirmi. Forse lasciarlo sulle scale è un modo di salvarmi. Forse non lo sai ma pure questo è amore. Forse non lo sai ma pure questo è amore. Forse non lo sai ma pure questo è amore. Forse non lo sai ma pure questo è amore. La pulce d'acqua, Angelo Branduardi e il grandissimo Stranamore di Roberto Vecchione. Grandissimo, io confesso anche una certa passione per il professore. A me piace tantissimo. Come ti confesso a questo punto anche una certa curiosità per Sanremo. Che succede quest'anno? Non succede nulla, è una fotocopia delle edizioni precedenti. Sempre la radio nelle prime due serate, sempre l'ultima serata trasmessa in televisione. Ma a questo punto, nonostante Beppe Grillo e Stefania Casini, bravissimi, aiutati da Maria Giovanna Elmi, non ha successo. Non ha successo perché i big sono latitanti. Guarda, solo due emozioni. Una è già una grande star, l'altra invece è agli esordi. Che un'emozione da poco mi faccia stare male. Una parola detta via non basta già. Ed io non vedo più la realtà. Non vedo più a che punto sta la netta differenza tra il più cieco amore e la più stupida pazienza. Emozione da poco, Anna Oxa e le Vien Rose di Grace Jones. Jones, me lo Jones, dici con quella Jones, faccia, poi Jones. Guarda, caro. Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. Loredana Bertè con Dedicato. Franco, dedicato a chi ha paura, dedicato ai cattivi, che poi così cattivi non sono mai, ma anche dedicato a chi capisce quando il gioco finisce. e non si butta giù, proprio come la Bertè che ha sempre avuto, mia cara Alessandra, il coraggio di ricominciare. Ricominciare, e proprio un nuovo inizio è quello di questo 1978 in Spagna. La juventud, hasta ahora marginada de las decisiones políticas, ha sido llamada por primera vez a participar con su voto desde los 18 años. Dopo 40 anni di dittatura, con un referendum viene ratificata la nuova Costituzione spagnola e istituita la monarchia parlamentare. Beh, anche nella musica ci sono dei grandi cambiamenti, cara Alessandra, perché al Festival Bar finalmente arriva uno dei miei cantanti favoriti in assoluto. Prima vi faccio sentire il brano che ha presentato, poi vi voglio far sentire quello che lui avrebbe voluto cantare. Una bella voce da creatura che sai chi è. L'immenso Pino Daniele con Napule e che calore. Beh, all'inizio della sua carriera Pino Daniele era anche un interprete della ribellione e del disagio giovanile. E a proposito di disagio giovanile, nel 78, Franco, i disoccupati sono circa 1.600.000. L'inflazione media supera il 12% e nelle fabbriche quindi il clima non è dei più sereni. Franco, vedo questa tua faccia. Franco, che succede? Che mi vuoi dire? Succede che stanno per arrivare i Rolling Stones. Poi un'altra sorpresa, perché è vero che è disco music, però ragazzi, a grandissimi livelli. Rolling Stones and Heroes, David Bowie. Questi due fanno proprio come gli pare, ma anche in Italia c'è chi fa proprio come gli pare. Litro di minestre che è un mondo di palline nascosto nella testa. E poi secondo me, One for you, one for me, fratelli la bionda, che questa canzone in inglese spopolano un po' in tutto il mondo. E poi secondo te che gusto c'è di Enzo Iannacci, leggendario, grandissimo, che poi negli anni 80 pensa scriverà anche l'inno del grandissimo Milan. Beh, adesso questa tua aria da tifoso, da sportivo, no, ma era, insomma, era una grandissima squadra, va bene comunque, per quelli che amano il calcio dobbiamo dirlo, il Milan era una grandissima squadra. Va bene Franco, comunque Milan. Allora ti dico che in questo 1978 Silvio Berlusconi dà il via alla sua prima emittente via etere, Telemilano, che trasmette da Milano 2 e ha un'antenna sul grattacielo Pirelli. Ma è la RAI che trasmette una delle novità televisive dell'anno, ma che dico Franco, del secolo. Sento odore di casa. Happy days. Arthur Fonsarelli, Fonsi, con la sua giacca di pelle, il rubacuori, te lo ricordi Franco? Hey. Quella giacca così famosa che persino Renzi, in visita alla De Filippi, l'ha rispolverata. Ha fatto benissimo. Ha fatto bene. Bene, benissimo, assolutamente. Beh, allora, ma Franco, ci lasci con Fonsarelli o hai qualcosa da aggiungere per chiudere in bellezza questo 78? Beh, io vi voglio far sentire qualcosa che ci siamo persi, ma che secondo me dovremmo recuperare. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Kate Bush, Love is in the Air, John Paul Young, Baker Street di Jerry Rafferty e The Devil is Loose, Asha Putley, pezzi meravigliosi cucinati alla console dal nostro master chef Alessandro Gappini, che come al solito si barcamena tra un pezzo e l'altro cercando di trovare dei pezzi che poi combaciano, e ce la fa sempre. E ce la fa sempre. Però a questo punto anch'io avrei un'ultima chicca settantottina. Avrei proprio deciso di interrompere questo rapporto. Tu dirai perché. Perché? Perché non so stare insieme a una donna, perché sono fatto male, non do nulla alle persone, mi disprezzo, sono fatto male, non ci riesco. Scusa, invece di disprezzarti, non ti passa per la testa che il rapporto è sempre da costruire? Che ci sono degli ostacoli che bisogna affrontare subito, senza fuggire? Sì, non, hai ragione. Si disprezza, Franco. Era Ecce Bombo di Nanni Moretti, il film manifesto di una, ma forse che dico più generazioni, quello di mi si nota di più se vado o se non vado. O se vado e mi metto in disparte. Esatto. Comunque l'avete sentito, alle prese con la nota capacità tutta maschile di interrompere una relazione in maniera sincera. E poi in quel momento, guarda Alessandra, quando devi mollare una, dice, scusa, ma che mi stai mollando alla Moretti, ti dicevano. Ah, così ti dicevano? Invece, no, perché ti vorrei parlare, non sei tu, guarda, sono io che in questo momento... È colpa mia. Mi stai mollando alla Moretti. È tutta colpa mia, ovvio. Allora. Allora, su questo, Franco, oggi noi abbiamo preparato una piccola sorpresa per canzone di chiusura, perché c'è stato un piccolo... Ho capito, che un golpe. C'è stato un piccolo golpe. Guarda, la responsabilità me la assumo io, però la devo condividere con Migliaccio, anche Chiappini, anche De Remigis, che sorridono, e persino Guerrera. No. Eh sì, perché noi ti vogliamo far ascoltare La Regina, e stavolta nella sua versione originale e insuperabile. I Will Survive di Gloria Gaynor. Che bella sorpresa! È un pezzo che ti piace molto, perché non è di quest'anno, è del prossimo. Ti sei portata avanti. Mi sono portata avanti, mi sono portata avanti, perché te la volevamo bruciare. Ok, ma io ve le faccio riascoltare domani. Guarda, allora. Non ho dubbi. Salutiamo. Ciao a tutti da Franco Schipani. Da Alessandra Fiori, ci vediamo nel 1979. Cioè domani. Ciao, ciao a domani.